A Radio Città ti dico solo le ore 15. Radio Città Fujiko è lieta di presentarvi Easy Pop. Conduce in studio Franco Paoletti. Regia del Bolognese Volante. Ah, siamo in onda? Siamo in onda? Ma che novità, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ben svegliato. No, sono un po', sto facendo delle prove con la voce. Buon pomeriggio a lei, a tradimento, aperto i microfoni. Buon pomeriggio. C'era la sigla. Sì, certo, ma pensavo che il tappeto sonoro andasse avanti, invece niente. Capirà che sorpresa. Va bene, playlist di oggi, molto interessante. State ascoltando Easy Pop in compagnia di Franco Paoletti che vi sta parlando, al di là del vetro, ovviamente, il nostro onnipresente, indispensabile Bolognese Volante. Smetterla con questa fusera. No, è vero. Puntata numero 47, oggi domenica 11 dicembre 2022, siamo qui per appunto una nuova puntata di Easy Pop, il nostro salotto pomeridiano, dove praticamente ascoltiamo tanta musica, soprattutto italiana e soprattutto indie, indipendente, ma non solo, insomma, poi ovviamente sforando anche nel mondo musicale normale, quindi insomma diamo un'occhiata a cosa succede. A parer nostro diamo così spazio anche a canzoni altre che ovviamente non ascoltate semplicemente sui network, e quindi anche qualcosa d'altro. E allora io direi, abbiamo una bella playlist e vedo già dei nomi interessanti. Il primo ancora più interessante perché è un personaggio che ben conosciamo, è un personaggio bolognese, forse bolognese d'adozione, questo dovrei chiedergli direttamente all'interessato. Direi di ascoltarlo. Io dico, annuncio solo chi è e poi dopo di lui parliamo fra pochissimo. Va bene, regia? Sì, dica chi è, non amico. Allora, lui è Bracco di Graci, ritorna alla musica con Così è la vita. In quelle sere senza impegni, quando ti siedi a volte sogni, sono più evidenti i segni dentro te, e cerchi tra le convinzioni quelle possibili ragioni, ma niente sembra poi convincere. Non vuoi la colpa di ogni cosa, ti chiudi sempre in quella scusa che tanto poi il destino fa come vuole lui, fa come vuole lui. Per ogni analisi sbagliata, per ogni scelta non curata, ci sarà sempre molta vita che non ti sarà scontata. C'è bisogno, sai, di interrogarsi, perché è facile sbagliarsi e fare pace con se stessi, volersi bene a tutti i costi, rialzarsi sempre quando cadi. Siamo un po' tutti come Rocky, così è la vita. Non basterà che ci si impegni per non sentirsi spesso soli, puoi soffocare i tuoi dolori, ma non vincerli. Diventerà una convivenza che non potrai più farne senza, Eccolo qua, è un personaggio, un cantautore che ben conosciamo se seguivate appunto la musica, il cantautorato degli anni 90. Lui è un personaggio che poi soprattutto a Bologna è conosciutissimo, un timbro vocale inconfondibile. 1991 vince il Festival di Castrocaro con il brano Vivo Muoio Vivo. Nel 1992 partecipa a Tour in Città e partecipa al Festival di Sanremo nella sezione Nuove Proposte Giovani con Datemi per Favore. 1993 partecipa al Festival di Sanremo di nuovo nella sezione Giovani col brano Guardia o Ladro, che ha grande successo, si classifica al quarto posto per le Nuove Proposte, e poi vince lo stesso anno il Cantagiro nella sezione Giovani e premio Rino Gaetano. Nel 94 invece partecipa al Festival Bar con il brano Uomo, pubblicato anche come singolo, e dopo un periodo fugace di questo successo nel 98 torna praticamente al lavoro normale, alla normalità, insomma lascia un po' il mondo della musica, anche se in realtà ha inciso anche dopo queste date, però insomma diciamo che le politiche discografiche non lo hanno certamente aiutato, e quindi insomma è ritornato nel 2012. Le politiche discografiche ma rovinano anche delle carriere, non dico certo, anche se lui ha avuto un padrino famoso, lo possiamo dire, Lucio Dalla, che insomma fin quando c'era ha potuto, insomma lo ha protetto nella sua ala protettrice, nella sua casa discografica. Detto ciò, mi fa piacere ritrovarlo qui, e lui dice solo: con questo singolo voglio solo lasciare una traccia di me, e quindi l'ha fatto. Un saluto a Bracco di Graci, che vorremmo avere il più presto possibile anche i nostri microfoni, perché no? E dunque ripassiamo invece alla prossima proposta. Si chiama Margherita, appunto di nome, le si fa chiamare invece Marghe, ci presenta Dondolavo, e di lei vi parlo fra poco. Era questo Dondolavo tra le tue braccia un po' sudate, la saliva prosciugata dallo zucchero salato, ibernizziamo quel che rimane al di sopra dei 30 gradi e non andare lontana se puoi. Fuori canto temporale, sono una goccia nell'acquario, meno male c'è la chitarra e mi scrivo una canzone, sorseggiando dalla Pepsi, un ricordo lontano di te. Combo perfetta per me, combo perfetta con te. Ricordo quando camminavo sopra un filo a testa in giù, come quando schifezze da mangiare, ma non c'è niente da sgranocchiare. Vorrei un fucile per dimenticare, ma puntualmente ci rimango male. Un po' mi piace ritornare, e se mi illudi so galleggiare, e non andare lontana se puoi. Fuori caldo temporale, sono una goccia nell'acquario, meno male c'è la chitarra, e mi scrivo una canzone, sorseggiando dalla pelle. Con l'abisso negli occhi, alla tua destra c'è lei. Marghe, ovvero sia Margherita Bucci, cantautrice, polistrumentista e DJ, si appassiona presto alla musica soprattutto del cantautorato, studia percussione al Conservatorio di Bari, e a cantare e a suonare la chitarra anche dal liceo in poi. A lei le piace scrivere queste canzoni, queste liriche sono molto sincopate, molto brevi e molto a rima. Diciamo che rispetto a Bracco di Graci forse è un cantautorato cantautorato a cui ci siamo disabituati, quello di Bracco, e dobbiamo abituarci invece a questa, a queste nuove performance, non lo so, insomma, piacciono di più. Quindi Margherita Bucci, abbiamo scoperto che praticamente già negli ultimi due anni si esibisce in DJ set, in live, in diversi contest e festival, e piano piano, insomma, si sta ritagliando un suo posto, anche perché lei è arrivata per Aurora Dischi, la Ingroove Music Universal, insomma, un contratto davvero interessante, una voce anche interessante. Allora forza, dai Margherita, vogliamo sentirti anche con altre appunto sonorità, con altre tue nuove. Nel frattempo invece parliamo di Comete, ci presenta Salta l'intro. Comete. Che poi ci muoio dalla voglia di scriverti, ma so che tanto poi non lo farò. Che siamo stati bene pure quel lunedì, che poi di base non mi piace mai. Quanta paura mi fai quando mi guardi negli occhi, specialmente la notte, che è tardi e non vogliamo tornare. Che poi mi piace pure quando mi dici sì, facciamo un po' come ti pare a te. Che non è come dire sempre va bene sì, e poi invece non ti va bene mai. Quanta paura mi fai che dici le cose giuste, già ti voglio un po' bene la notte. A camminare per ore, mi piacerebbe tanto saltare l'intro e andare dritti al punto del discorso, senza doverti niente, poi volerti dare tutto, senza girarci intorno. Che cosa pensi tu? Che poi ci muoio dalla voglia di stringerti, forse per questo non ti chiamerò. Che in fondo siamo molto più simili, non per le gioie, forse più per i guai. Quanta paura mi fai quando mi dici le cose che ti passano in testa, anche se non sai nemmeno se è vero. Ma forse è meglio così. Ci sono sonorità che veramente a me piacciono particolarmente, mi conquistano al primo istante. Comete è uno di quelli, poi tra l'altro Salta l'intro, il suo nuovo singolo. Lui si chiama Eugenio Campagna, in realtà è nato a Roma nel 1991, appassionato di musica sin da piccolo. Piano piano comincia a esibirsi nei vari locali della sua città e poi via via, insomma, arriva anche alla pubblicazione di Cornflakes, il suo primo singolo uscito durante la partecipazione come concorrente di X Factor 13. A giugno 2021 invece è uscito il suo primo album solo, Cose Belle, si intitolava così. A proposito di Cornflakes, che è appunto Cornflakes si chiama il suo primo singolo, io mi ricordo invece Cornflakes Girl di Tori Amos, se le ricorda lei? No. Ma va bene, lei ha la memoria corta. Cortissima. Io direi a questo punto di andare con la prossima. Grigio Crema ci presenta Blue Jeans. Guardami, spogliati, baciami, poi tirami. Guardami, guardami, guardami. A sé. Guardami, spogliati, baciami, poi guidami. Sto navigando dentro l'universo dei tuoi jeans. Sì, passo tra le stelle cercando mille rotte. Mi perdo nella notte, ma lo farò con te. Sì, guardami, spogliati, baciami, poi guidami. Sto navigando dentro l'universo dei tuoi jeans. Sì, passo tra le stelle cercando mille rotte. Mi perdo nella notte, ma lo farò. Santa Chiara, San Francesco. Solo da qui non esco, senza te io non resto. Flash, flash, mi ha flashato, dei tuoi occhi sono un ladro. Io non ho paura, tanto me la cavo. Tu bellezza vera, della foresta nera, sguardo da pantera. Se Dio ti vede prega, tu prega per questi soldi, che possa farmi molti, che possa regalarti tanti felici giorni. È stato un battito di ciglia, un po' stista per chi vista la conquista di te. È stato un battito di ciglia, un po' stista per chi vista. Guardami, spogliati, baciami, poi mirami. Sto navigando dentro l'universo dei tuoi jeans. Grigio Crema, pensate un po', quest'artista non voleva farsi riconoscere al suo esordio, praticamente cantava portando dietro un passamontagna, probabilmente un po' col Covid, oppure insomma subito dopo il Covid, forse diciamo portare un passamontagna non è proprio il massimo. Perché, no, quindi... io mi ricordo che quando ero giovane si portava. Però adesso c'è tutta questa polemica di bisogna farsi vedere il viso, poi sì, poi no, insomma, forse, no, quante forse storie, quando è freddo è freddo, certo, però forse in montagna sta meglio piuttosto che in città, e comunque sì, esistono, forse le sciarpe sono la soluzione migliore, le belle sciarpe di quelle di lana, esatto, che non ci sono più, esatto. Come no? Comunque nel 2020 esce il suo primo album dal titolo È quasi luce, un disco che unisce atmosfere trap, soul, R&B mescolate fra di loro in un intreccio, diciamo, di suoni ed emozioni particolari, e poi tutto l'ha fatto nello studio qui a Bologna, e quindi insomma si gioca anche un po' in casa dove lui studia, e a questo punto è già in programmazione un album che uscirà prossimamente. Noi abbiamo assaporato questo Blue Jeans, appunto, Grigio Crema. Detto ciò, chi abbiamo regia sul piatto numero 2 ancora da Cartello featuring Henry. Sto bene. Mi sa che nemmeno questa volta basta la pioggia a spegnere questo fuoco che brucia. Questo fuoco che brucia. Mi sa che il vento è stanco, l'aquilone non parte, e da te non arrivano le mie parole. Sarà la notte che mi parla, sarà tua mamma che mi urla, saranno le parole che non girano, non girano. Che nemmeno questa volta ritorno a casa per evitare certe parole amare. Vorrei cambiare, svoltare, incidere una traccia che non ti farò ascoltare. La tengo per me come i pensieri. Vorrei parlarti, guardarti con occhi più sinceri. Ma i muri ascoltano, loro lo sanno, loro lo sanno. Cazzeri davvero ieri. Sarà la notte che mi parla, sarà tua mamma che mi urla, saranno le parole che non girano, non girano bene. Io non sto bene. Che mi sveglia, sarà tuo padre. Cartello, sì, featuring Henry, sì. Non era Noemi, ma era Henry. Infatti io volevo dire, quando ho ascoltato questa selezione, l'impressione era un'impressionante somiglianza con Noemi, ma anche con Madame in alcuni punti, e quindi ho detto, ma chi è questo, di chi è questo pezzo, molto interessante, e invece di Cartello, featuring Henry, e quindi andiamo a sviluppare il tutto. Cartello e pseudonimo di Salvatore Diego Di Gioia, cantautore italiano pugliese, però si è trasferito a Rimini. Attenzione, perché Rimini è il punto d'arrivo per lui. Nel 2000 appunto avvia il suo progetto come 2020 come appunto solista, e poi incontra Henry, pseudonimo di Musarra Pizzo Maria Irene, un cantautrice italiana che anche lei, insomma, intorno a Rimini praticamente canta e si fa le ossa, la cosiddetta gavetta nei locali lì, e si sono incrociati e quindi hanno detto, sai che c'è, l'unione fa la forza, proviamo a cantare insieme. Ed effettivamente è andata bene a entrambi, perché stanno incidendo questo singolo che sta ottenendo diversi ok, soprattutto per quanto riguarda Salvatore Diego, ovvero sia il Cartello, ha raggiunto le 200.000 views con altri suoi pezzi, quindi insomma comincia a essere un nome di peso soprattutto in Spagna. Lei invece sta lavorando a un album con più featuring, quindi complimenti a entrambi che hanno trovato la loro strada. Tutto questo succede nella musica italiana indipendente, e insomma, se sono piccoli, grandi diventeranno domani. Quindi complimenti, perché mi è piaciuto sia lo stile musicale sia il testo, e quindi insomma io invito e noi invitiamo sempre anche a carpire il testo e soprattutto si dice la sintassi, no, vero? Proprio la sintassi, sì. Sì, è proprio il contenuto stesso. A proposito di sintassi, facciamo un po' di sintesi. Andiamo avanti? Andiamo avanti, certamente, io ho espresso il mio giudizio, andiamo avanti con Daniele Gatti, ci presenta Vale. Mi slaccio il pantalone mentre suono la chitarra, la mia vita è gialla, nel senso che c'è il sole, ho la sensazione che non lasceremo il letto, questo mondo infetto diventa un aquilone. Davvero, davvero, se ti dico davvero, davvero, davvero. È vero se ti dico che è vero, che è vero, che è vero, che è vero, che è vero, che è vero, che un attimo di sole, un attimo di vale, è quello di cui ho bisogno. Un attimo di mare, un attimo di vale. Quando spento le domande, crescere insieme come onde e maree. Ho trovato mille volte persone che dicevano che non può esistere qualcuno come te. È vero se ti dico che è vero, è vero, è vero. Ma è vero se ti dico che è vero, che basta, che basta, che basta, che basta soltanto un attimo di sole, un attimo di vale, è quello di cui ho bisogno. Un attimo di vale, ah. Ridi, ridi, ridi, ridi, perché quando ridi mi riempi, sbiadisci i miei limiti. Ridi, ridi, ridi, ridi, ridi, tu sei un attimo di sole che congela i miei lividi. Prima del tempo ho preso calci nel petto, ora ho l'acciaio nel ventricolo. Molto interessante anche la storia di Daniele Gatti, Vale, il suo nuovo singolo. Il precedente è stato licenziato qualche tempo fa, si chiamava Stan Smith, era il suo singolo d'esordio, però lui ha 25 anni, nato a Roma nel 97, pensate un po', alle scuole medie impara a suonare saxofono, ispirato niente proprio di meno che da Lisa Simpson, quindi il cartoon ovviamente dei Simpson, dove dove c'è appunto la piccola Lisa che suona stupendamente il sax, e da qui comincia a creare le sue prime melodie, insomma si avvicina alla musica, per poi lasciare appunto il sassofono e passare invece alla chitarra. Ha frequentato con successo profitto il Centro Sperimentale di Cinematografia nella Scuola Nazionale appunto di Cinema Italiano, e dice che il suo idolo è Domenico Modugno. Anche lui, ha detto, divenne cantante dopo aver frequentato appunto il Centro Sperimentale, che è poi tra parentesi lo ha aiutato a essere più comunicativo. Complimenti a Daniele Gatti. Oh, sono dei geni questi nuovi cantanti, devo dire, sono bravi, un mazzo, cioè sono dei bravi. Talenti veramente, se lo coltivano si applicano, mi piace. Paoletti, siamo alla prossima. Mancano che cosa? 14 giorni a Natale. Sì, ci siamo, non ci siamo quasi. Non mettere una canzone di Natale, Paoletti. E che cosa mettiamo? Ce la propongono i Mac Groove and Coppola and Danny Barbanera featuring Fabio D'Andrea, Christmas in My Heart. Non potevamo non metterla, Paoletti. Wanna see you cry. Together we could try to sing a song away from the window. We will have another chance to play another game. We want to fly again. Molto bello, ma mi piace. Natale, non qua. Si dice comunque quasi Natale. Qui c'è un featuring Fabio D'Andrea insieme appunto a questo a tutti questi personaggi. Mac Groove, che è un grande progetto musicale pop dance nazionale, anzi internazionale. C'è Coppola, una cantante di Pompei, e appunto lo stesso Fabio D'Andrea qui in tutti insieme per questa canzone natalizia. E tra l'altro vi invito soprattutto a guardare il video, molto molto simpatico, dove praticamente inizia così con la stanza degli elfi, dove praticamente arrivano insomma fino al Natale a distribuire regali. Simpaticissimo. A proposito di elfi, c'è la pubblicità che non sì, niente. Importantissimo, però insomma bisogna anche dare spazio ai consigli commerciali. Rientreremo fra pochissimo con tantissime altre novità, quindi non andate via. Come dice Paoletti. Radio City Fujiko, Easy Pop. Domenica 18 dicembre dalle 10 alle 18 ad Ex Centrale in via di Corticella 129 a Bologna, Assemblea Nazionale Carcere. Un incontro a 2 anni e mezzo dalle proteste, qui hanno fatto seguito i pestaggi e le morti, ma anche contro il sovraffollamento, i suicidi, l'ergastolo ostativo e il 41 bis. Organizzano Comitato Verità e Giustizia per i morti del Sant'Anna, Associazione Bianca Guidetti Serra, Associazione Iairaia ed Ex Centrale. Assemblea Nazionale Carcere, domenica 18 dicembre in via di Corticella 129 a Bologna.

ti ascolto e più mi sento inutile, ma vado fino in fondo. Nell'equazione siamo io e te. Mi sento come una figura in carta senza capire. Resta così fragile e sottile fino ad essere schiacciata da una suola consumata che la verità è sbagliata. Ma ci resta ancora solo un video TikTok, che se ti dovessi dire neanche lo so perché lo faccio. E quando vado giù di testa ci sei ancora tu che ridi mentre parlo. La tua io non serve, forse non è questa. Non so che cosa hai fatto ma rifallo. Che sei tu il mio mondo, più ti ascolto e più mi sento inutile, ma vado fino in fondo. Nell'equazione siamo io e te. Io ti sto aspettando mentre vado in fissa con WhatsApp e poi non ti rispondo. L'inferno dentro al paradiso è qua. E stare bene, stare bene, stare bene nella mia testa che farà tatarara. Guardo il mio cane che sembra parlare e mi fa stare bene. Che sei tu il mio mondo, più ti ascolto e più mi sento inutile, ma vado fino in fondo. Nell'equazione siamo io e te. Io ti sto aspettando mentre vado in fissa con WhatsApp e poi non ti rispondo. L'inferno dentro il paradiso è qua. Che sei tu il mio mondo, io ti ascolto e più. Una band che si fa chiamare Fake, l'inferno dentro il paradiso, il loro nuovo singolo. Una band che insomma l'avete forse vista ad Amici nel novembre 2021, dopo aver vinto quel contest per il concerto di Natale di quell'anno. Praticamente sono cresciuti musicalmente parlando e appunto sono approdati finalmente a un nuovo così, a una nuova vita, con appunto questo nome, con nuovo cantante se non sbaglio, e sono qui insomma a cantare questo nuovo singolo che non è niente male, che sta ottenendo molti consensi sullo streaming. Devo dire che loro hanno fatto parte appunto dei tema per diversi anni, hanno partecipato alle trasmissioni di Amici di Maria insomma per focalizzare meglio il tutto, e poi insomma la rinascita con il marchio Fake. A questo punto cosa succede, regia? Cosa vuole che succeda? Andiamo avanti con la trasmissione. Certo, chi abbiamo ancora? Abbiamo Mariano Casulli e la sua Sospesa in bilico. Cuore inquieto, sarà la voglia di spaccare tutto, di tornare indietro. Ma forse sai di quello che è stato o no, non me ne importa niente. Voglio restare in bilico e non pensare a niente. Non pensare a niente, e non pensare. Lo sai quanto fa male restare ancora un po' in bilico, e mentre corro forte la pioggia bagna le mie guance. Ma modo come un altro per sentirmi un po' distante. E separare tutto, dividermi tra il bene e il male. Io resto ancora in bilico e mi fermo a respirare, a respirare. Lo sai, lo sai quanto fa male restare ancora un po' in bilico. Mariano Casulli sospeso in bilico, adesso Paoletti ce ne parla. Esattamente così, un personaggio molto interessante che praticamente si ispira ad artisti come Tiro Mancino, Fabi, oppure Cremonini o De Gregori, Coldplay. Insomma, nel 2019 pubblica in maniera indipendente il suo primo singolo a ottobre e poi Scappi Via, un brano accompagnati poi da dei videoclip interessanti, soprattutto l'ultimo che parlava di violenza di generi, Silenzio a cui tornare, e insomma ha fatto parlare molto di sé fino alla pubblicazione del quarto ultimo singolo Resilienza, che è praticamente è stato forse il singolo di maggior così come si può dire di maggior attenzione, successo per quanto riguarda il risultato, il riscontro esatto. Quanti per altri quanto... sostantivi vuole? Non lo so, io la vedo un po' così, insomma, allora la vedo grigia guardando fuori, ma infatti buio, molto buio, e quindi dicevo la fine del mondo, ma no, forza, coraggio finché c'è la musica a schiarire il tutto. Allora, dicevo, in Resilienza, con questo brano Mariano in pratica viene segnalato tra i migliori singoli del 2020 per la rivista Puglia Music, e da lì in poi solo cose belle per questo cantautore che a 2 anni di distanza da questo singolo finalmente debutta con questo nuovo singolo, in attesa appunto di un album a cui sta lavorando con tra l'altro un nuovo produttore molto interessante che noi già ben conosciamo, il produttore Molla, che poi è anche un cantautore. Non mi guardi con quella faccia come chiedermi chi è, perché non lo so. No, vabbè, insomma, preannuncio. Lo so che da lei non posso aspettarmi nulla, quindi insomma non mi aspetto nulla. Lei lo sa che un ascoltatore ci ha appena scritto da Palermo che sono 20 gradi? Ah, che bello, un freddo, parti un po' di caldo, allora non so. Prendi una bottiglia, la porto qua. Bisognerebbe fare così. Andiamo avanti, allora, andiamo avanti. Salutiamo questo, cos'è questo siciliano? Riccardo. Ah, Riccardo, il nostro amico. Allora un saluto a lui, sicuramente gli farà piacere. A questo punto noi velocemente andiamo con Kay Hunt e Pulsar. Mi basta poco per ritrovarti, mi esplodi dentro come una tre quarti che si congela quando la dimentichi, dentro il tuo freezer che implode di scarti, come le parti che mi compongono e che insorgono quando rifiutano di essere messe da parte, sedotte da quello che invece ricordano, sempre reattive, esplodono come una Pulsar che arriva al suo limite, ritornano vive in me come una pioggia di cose, di nuvole cariche, giù nuove critiche, come gestisco quello che mi è capitato, sono il mio prodotto e vendo tutto quanto quello per cui sono nato. Quando ritorni da me ho sempre il brivido della prima volta, ora capisco il perché non posso chiudere, ti ho aperto un'altra porta. Quando ritorni da me ho sempre il brivido della prima volta, ora capisco il perché non posso chiudere, ti ho aperto un'altra porta. Basta poco per ritrovarti, ti guardo negli occhi e ci vedo i ritratti dei giorni passati e ridotti ad insulse parole, lasciate che fossero varchi che ci hanno avvolti come nei parchi, venti che muovono foglie caduche, pensieri indifesi nell'orma di quelli che erano finti passi in avanti, e noi ormai stanchi in balia di sogni infranti, mani tesi, abbracci distanti come due amanti in crisi di nervi e di pianti che non sanno più che via seguire, restando sempre uniti eppure sempre pronti per fuggire. Quando ritorni da me ho sempre il brivido della prima volta, ora capisco il perché non posso chiudere, ti ho aperto un'altra porta. Quando ritorni da me ho sempre il brivido della prima volta, il perché non posso chiudere, ti ho aperto un'altra porta. Non siamo mai cresciuti dai 20 anni, siamo rinchiusi nel tempo. Eccoci qua, Paoletti. Allora ci parli di K-Ant Pulsar. In realtà si legge K-Ant, e quindi se ci presenta Pulsar in attesa del nuovo album a cui sta lavorando questo, questo giovinotto insieme a un, così, a un gruppo di amici che insomma richiama molto, no, il reggae, il dub, con questa linea di basso marcata, avvolgente, quasi jazz, new sound, new soul, come dire, la drum and bass insomma di una volta, e devo dire con questa ipnotica elettronica hip hop ci piace molto. E questo, dicevo, è il singolo, si intitola Pulsar, appunto, in attesa dell'album, per colui che sta, ci sta mettendo un po' tanto per questo album in realtà, perché il precedente risale a 4 anni fa circa, e adesso finalmente insomma ha licenziato questo nuovo singolo, e insomma, come dico io sempre, se sono rose fioriranno, attendiamo buone nuove, e noi suoneremo anche questo genere di musica. Che dire, regia? Corriamo perché il tempo è tiranno. Andiamo avanti. Ah, qui l'inglese è il suo pane, quindi lo mastichi lei. Lei adora farmi parlare in inglese. Certo. Le piace. Allora, sì. Beh, questo è facile. Abbiamo i Temskin con Among the Star. Questa era facile, però. Poteva farcela anche lei. So, you've been knocking in a unexpected moment. The floor on the field was still missing. The rubber vents clouded my thoughts. Duty is winding down my shoulder. What could I really give to you? I remember the sound of your little heart. I remember when you turned around. I try with all my heart to understand. Maybe you saw just who I am. I finally choose to go back to the stars. Eccoci qua, ma che bella canzone, mi ricordava un po' leggermente qualcosa di già sentito, ovvero sia Kate Stevens, ricorda un po' le atmosfere, Lady Marmalade doveva essere, no, Lady Darby, non insomma, non mi ricordavo bene il titolo, comunque un po' la Kate Stevens, ma ci ho dovuto perché insomma i diversi componenti hanno diversi gusti musicali, quindi si passa dal dark a così al pop, all'elettronica. Beh, insomma, anticipato dal singolo Just Friends esce appunto questo album dal titolo Behind the High I Guest Peach, un album appunto dei The Unscreen, che vuol dire senza pelle in pratica. Questo è il loro nuovo singolo che appunto stanno programmando un po' in lungo e in largo. I componenti, appunto, volevo dire, provengono da diversi generi musicali, hanno ricreato questo suono e questa band dopo diversi ripensamenti e dopo alcune fuoriuscite. Una band italiana che sta avendo, insomma, i suoi giusti, insomma, apprezzamenti, soprattutto live, e quindi, insomma, un in bocca al lupo ai The Unscreen, appunto, Among the Stars. Voglio ricordarvi il singolo che abbiamo ascoltato. Intanto fuori è sempre più buio, io ho acceso la luce perché non vedo neanche fatto più bene, vedo dei nuvoloni non che vedo non neanche promettono... più le tastiere, no, vedo dei nuvoloni, insomma, che manovravo alla cieca qua. Ah, ecco, capito, va bene, luci. Ha fatto bene, io sono orbo, l'avevo già acceso. Adesso Paoletti, un brano dance, si balla. Sì, oh, spezziamo un po' questa cupezza, perché insomma speriamo, già c'è il plumbeo a dir Alex poco. Cooper, New Beat Order, Brit Ilari, To Ritmo. Sono distratto. Lei si è distratto non si fa così. Non si fa così. Cosa faceva? Lei si distrae molto facilmente, ma insomma. Andiamo non avanti, si può, facciamo finta di niente. Non su si via. Può, ma come facciamo finta di niente? Insomma. Via, Paoletti, facciamo finta di niente. Comunque, lui era praticamente Alex, giusto? Alex Cooper. New Beat Order, Brit Ilari, To Ritmo. Esatto. Allora, per quanto riguarda Alex Cooper, è lui la mente appunto di questo progetto. Alex è anche un affermato DJ performance, già conosciuto nell'ambiente grazie al suo carisma, e così è da sempre definito, insomma, no, si è sempre, scusate, distinto per le sue performance e per i suoi singoli del clubbing cosiddetto, insomma, e questa volta, insomma, c'è riuscito a così a centrare il bersaglio, tant'è vero che tra marzo e maggio 2023 escerà finalmente il suo primo album, dove contengono anche diversi singoli che ha già licenziato con successo. E quindi Alex Cooper, pseudonimo di Andrea Cogliatti, insomma, così ha raggiunto i suoi obiettivi, oltre che, insomma, a fare il performance in diverse discoteche. Complimenti a lui. E a questo punto cosa succede, regia? Abbiamo Safari con S, dopo ce ne parla. As peso dal cuore felice per te. Essa è andata via, eravamo seduti sul divano a guardare un bel film e la coca è ancora lì. Essa è andata via e non so perché, è scappata stanotte col treno e ha lasciato qui da me la collana, gli orecchini e le scarpe coi tacchi. Oh, essa è andata via e non so perché. Chiamare tua mamma, la casa che hai comprato l'hai pagata con gli anni. Essi abbracciami e stammi ancora vicino, la porta dei sogni si è chiusa e sei nuda nel mio camerino. Eccoci qua, di Safari ne parlammo un po' di tempo fa, il nome appunto di un duo composto da Alessandro De Blasio e da Daniele Pertosa. Alessandro, dopo aver fondato i suoi primi progetti musicali, arriva fino alla Sony Music, vincendo appunto Medimax nel 2018 e poi via via varie collaborazioni con personaggi di spicco del mondo musicale, tant'è vero che col progetto Stereo Tapes arriva X Factor 17 nella squadra capitanata da Manuel Agnelli e poi inizia una collaborazione con H7 come chitarrista e poi insomma via via insomma questo marchio di fabbrica Safari sta prendendo piede fino ad arrivare diciamo a delle pubblicazioni vere e proprie che in rete stanno riscuotendo un gran successo e questo appunto è il loro nuovo singolo. Allora Paoletti, siamo in finale di questa puntata, numero 47, dico bene? Sì, sì, 47. Ancora un brano natalizio per chiudere, Marco Sentieri, buon Natale! Abbiamo i cuori pieni, pieni di fantasia, guardiamo quelle luci che ci fanno compagnia, vetrine dei negozi che riflettono i sorrisi, questo Natale tanto amore ci regalerà. Pronti per festeggiare, riuniamo tutti a casa per il Natale. Ti invito con un biglietto, con dentro scritto buon Natale a te. Cosa trovi sotto l'albero, ma chi c'è intorno a te? Questo Natale sembra tutto così magico, perché sei qui con me. Nonno sistema l'ultimo pastore sul presepe, la nonna con un cenno dice pronto a tavola. Si aspetta a mezzanotte che arrivi Babbo Natale, tanti regali sotto l'albero ci porterà. Ah, a proposito di regali, non posso non citare la campagna abbonamenti della nostra radio, vero Paoletti? Certo, tutto riportato nel nostro sito della nostra radio www.radiocittafugico.it/abbonamenti. E qui appunto si trovano tutte le istruzioni. È una calda raccomandazione che facciamo a tutti per tenere in vita, per sostenere la nostra radio in un momento storico un po' delicato come questo è di vitale importanza sostenerla per continuare a dare spazio all'informazione indipendente e alla musica indipendente come Easy Pop e tante altre trasmissioni, mi raccomando. Certo che sì, e quindi se non sapete cosa regalare a Natale oppure vorreste farvi un regalo, perché no, regalate o regalatevi un abbonamento a Radio Città Fujiko. Quindi ci teniamo caldamente a fare questa campagna di abbonamenti per la radio come un'idea originale vitale per mantenerla in vita, e vi rinnoviamo appunto ad andare sul sito per le modalità dettagliate, e vi aspettiamo anche agli eventi che organizziamo via via per vederci dal vivo. Certo, www.radiocittafujiko.it/abbonamenti, e qui troverete appunto tutte le istruzioni. Quindi vi invitiamo davvero caldamente ad aderire per sostenere e soprattutto, la radio. E soprattutto ditele ai vostri amici, insomma fate pubblicità, mi raccomando, che è la cosa più efficace. Esatto, e quindi a questo punto avevamo sottofondo ancora Marco Sentieri. Buon Natale Marco Sentieri, ve lo ricorderete sicuramente perché nel 2019 ha vinto a Sanremo Nuove Proposte con Billy Blue, il brano che trattava la tematica del bullismo, e appunto vince la sua gara Sanremo Giovani e gli ha dato appunto l'accesso poi al Festival di Sanremo 2000, classificandosi terzo nella sezione Nuove Proposte, riscontrando così un grande successo. È proclamato anche vincitore morale dalla critica e dagli addetti ai lavori, e quindi il suo percorso musicale prosegue anche senza Sanremo. Molto bene, noi salutiamo tutti e tutte, in particolare Riccardo e Pierluigi, grazie averci ascoltati, speriamo di aver regalato un'oretta di musica spensierata a tutti coloro appunto che ci hanno ascoltato. Vi diamo appuntamento alla settimana prossima, stessa ora, stesse frequenze, mi raccomando, stesso sito, insomma, tanto per dire. Certo, vi lasciamo la programmazione di Radio Città Fujiko, non andate via, mi raccomando, abbonatevi per tenere in vita la nostra radio e la nostra musica. Bye bye da Franco Paoletti e dal Bolognese Volante, buona settimana. Ciao. Ciao. Festeggiare, riuniamo tutti a casa per il Avete ascoltato Easy Pop, che vi dà appuntamento a domenica prossima, alla stessa ora, e vi augura un buon proseguimento sulle frequenze di Radio Città Fujiko.